La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Continua la nostra lettura di questo libro abbastanza sconcertante come il libro del Coelet e quest'oggi avremo davanti a noi una pagina piuttosto sorprendente. Anzi, tra poco ascolteremo un versetto che sicuramente è considerato tra i più scandalosi, tra virgolette, di tutta la Bibbia. È una dichiarazione così pessimistica che ha fatto tante volte versare fiumi di inchiostro per cercare di renderla meno provocatoria. Il capitolo sesto, comunque, che noi ora leggiamo, è una riflessione aperta sul tema della ricchezza, sul tema del denaro e dei suoi esiti. Ecco, siamo ben lontani da certe pagine dell'Antico Testamento, come nel libro dei Proverbi o come si può vedere nei ragionamenti degli amici di Giobbe, pagine che consideravano il benessere, la prosperità, la ricchezza come una ricompensa per la giustizia, come una benedizione del sapiente da parte di Dio stesso. Ebbene, Coelet invece, in una pagina particolarmente aspra, dipinge l'insoddisfazione radicale di chi, pur avendo molti beni, non riesce a goderli, anche se si è più grandi di un patriarca biblico, i quali avevano vite lunghissime, avevano decine e decine di figli, anche se quindi si ha la possibilità di percorrere un lungo itinerario terreno, non cessa mai quel vuoto interiore che non ti fa provare sapore, desiderio, gusto per nulla. E allora a questo punto c'è quella esclamazione che è di una violenza inaudita e che in un certo senso dovremmo giustificare perché è presente nell'interno di un testo che per i credenti è pur sempre parola di Dio. Quella dichiarazione così violenta, così scandalosa, come dicevo prima, secondo la quale è molto meglio l'aborto che viene dal nulla e precipita nella tenebra, piomba negli inferi, senza provare mai questa insoddisfazione radicale che è quella dell'esistenza terrena. Sentiremo questo versetto, poi diremo magari una parola per cercare in qualche modo di giustificarlo, soprattutto di giustificarlo ai credenti, perché questo pessimismo sembrerebbe urtare contro il testo della parola di Dio, la quale dovrebbe per eccellenza annunciare speranza. È un'altra sciagura che ho visto sotto il sole e che pesa molto sull'uomo. È il caso di colui al quale Dio concede ricchezze, tesori e onori senza fargli mancare nulla di quanto potrebbe desiderare. Ma Dio non gli concede di poterne godere, perché sarà invece un estraneo che ne godrà. Ciò è vanità e disgrazia grande. Anche se quest'uomo generasse 100 figli, vivesse molti anni e grande fosse il numero dei giorni della sua vita, ma non trova soddisfazione nei beni che possiede e per di più non ha nemmeno una tomba, io dico che migliore di lui è un aborto. Infatti questi viene dal vuoto e se ne va nella tenebra e l'oscurità copre il suo nome. Per quanto non abbia visto né conosciuto il sole, tuttavia la sua sorte resta sempre migliore di quella dell'altro. E se quello vivesse anche 2 volte 1000 anni, senza però poter godere i suoi beni, non va forse a finire nello stesso luogo dell'aborto? Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, eppure il suo desiderio non si sazia mai. E allora quale vantaggio ha il sapiente sullo stolto? Che serve al poveraccio sapersi destreggiare nella vita? Meglio vedere con gli occhi che vagare con la fantasia. Anche questo è vanità e occupazione senza senso. Ciò che è già da tempo ha avuto la sua sorte. Che cos'è un uomo già è risaputo, egli non può contendere con chi è più forte di lui. Infatti, moltiplicando le parole si ottiene solo di aumentare il vuoto e la delusione. E l'uomo quale vantaggio ne trae? Chissà che cosa è bene per l'uomo nella sua vita, nei giorni contati della sua vana esistenza, che sfuma come un'ombra. Chi può predire all'uomo che cosa avverrà in futuro sotto il sole? Abbiamo dunque ascoltato il capitolo sesto di Coele nei versetti 1-12. Si tratta, come avete sentito, di una riflessione che ha prima di tutto come tema la ricchezza, ma c'è quella dichiarazione violenta sulla nausea della vita al punto tale da considerare come vero e proprio dono non essere nati, essere simile a un aborto. Infatti diceva, io dico che è migliore di lui, di colui che non riesce a godere mai di questa esistenza, anche se ha benessere, anche se ha lunghi anni, è meglio il destino di un aborto. Questi viene dal vuoto, se ne va nelle tenebre e l'oscurità copre il suo nome. Ecco, questo è proprio un segno profondo dell'incarnazione della parola di Dio. La rivelazione ebraica, la rivelazione biblica, anche quella cristiana per eccellenza, anzi, è incarnata. Cioè passa non attraverso il fulgore dei cieli, non decolla verso orizzonti mitici e mistici, ma si inserisce profondamente nell'interno delle crisi e nelle amarezze degli uomini. Per questa ragione noi non abbiamo mai il diritto di dire che una persona disperata, per esempio, o persino una persona atea, non abbia dentro di sé una scintilla che in qualche modo parla di Dio, non abbia qualcosa di misteriosamente importante che dobbiamo anche noi cercare come credenti. Ecco, questo è il valore di Coele. Per questa ragione io penso che Coele sia quello che rappresenti meglio di tutti l'incarnazione, in un certo senso anticipi Cristo, il quale ha voluto assumere su di sé tutti i limiti dell'umanità, portando anche il peccato dell'uomo, anzi, come dice Paolo, diventando lui stesso peccato agli occhi del Padre, di Dio, proprio per poter attraversare con la sua forza liberatrice il male. Ecco, Coele dice, ci dice che anche quando siamo nel silenzio, Dio non è assente. Una serie di proverbi poi ha suggellato il brano che abbiamo ascoltato e la sua considerazione sull'angoscia umana, che non potrà mai essere saziata né dal cibo, né dalla sapienza, né dalla ricchezza, né dalle illusioni. L'ultimo breve brano che abbiamo ascoltato, quello degli ultimi versetti, conclude un po' tutta la riflessione, costellato proprio di domande sul senso. Domande che però hanno sottilmente delle risposte negative in Coelet, e sono però le domande che dobbiamo porci, anche se ci lacerano la coscienza, le dobbiamo porre tutti noi. Che cosa si ricava dalla vita? Chi sa quale sia il bene? Chi può predire il futuro? E Coele dice l'unica cosa certa è che la storia si ripete in modo monotono e noi non siamo in grado di impedire il suo corso inesorabile, né a parole né a fatti. E con questo messaggio piuttosto triste, il libro dell'incarnazione della parola di Dio chiude un'altra sua tappa. Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.